ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Quello che vi era di grande e di forte in Martin, Ruth non lo vedeva, o peggio ancora, lo fraintendeva. Quell'uomo fatto di una creta così plastica da poter vivere in una qualsiasi delle piccionaie dell'esistenza umana, quell'uomo lei lo giudicava testardo e ostinato perché non riusciva a renderlo adatto a vivere nella sua propria piccionaia, l'unica che lei conoscesse. Ruth non era in grado di seguire i voli della mente di Martin, e quando il cervello di lui superava le possibilità del suo, lei lo giudicava eccentrico. Martin era la prima persona dotata di un cervello le cui capacità fossero superiori a quelle del suo. Ma Ruth aveva sempre potuto seguire i pensieri di suo padre e di sua madre, quelli di suo fratello, di Olney, e perciò, quando non le riusciva di seguire i pensieri di Martin, e concludeva che fosse lui in errore. Era un'antica tragedia, quella dell'insularità che vuole dettare legge all'universo. «Tu adori il santuario della convenzionalità», Martin disse una volta a Ruth durante una discussione su Prats e Vanderwater. «Concordo che come autorità da citare siano dei nomi eccellenti i due eminenti critici letterari degli Stati Uniti. Tutti gli insegnanti del paese guardano a Vanderwater come al padre della critica letteraria in America. Eppure, leggendo i suoi lavori, ho avuto l'impressione che Vanderwater abbia raggiunto la perfezione nell'esprimere in modo appropriato il vuoto. Ecco, grazie a Gellett Burgess, Vanderwater non è altro che un anziano noiosissimo signore. E Prats non è certo meglio. Il suo Helmock Moses, per esempio, è scritto davvero bene. Non c'è una virgola fuori posto. E il tono, è così alto, così alto. È il critico meglio pagato degli Stati Uniti. Ciononostante, e Dio mi perdoni, non è affatto un critico. In Inghilterra la critica letteraria è molto più avanti. Il loro punto di forza è che entrambi suonano una musica popolare e la suonano con maestria, moralità e soddisfazione. Le loro recensioni sono scontate come una domenica inglese. Quei due critici sono gli ambasciatori dei luoghi comuni. Sostengono le idee dei tuoi professori di inglese e i tuoi professori di inglese sostengono le loro. In tutti i loro crani non troveresti una sola idea originale. Conoscono solo ciò che è convenzione, solo la convenzionalità. Oh, sono menti deboli, capaci solo di ricevere ciò che è convenzionale, così come una bottiglia di birra sa ricevere l'etichetta della sua birreria. Il loro compito è di catturare tutti i giovani che frequentano l'università e di estirpare dalle loro menti ogni barlume di originalità che per caso vi si trovi e applicare loro il marchio della convenzionalità. Forse io sono più vicina alla verità, replicò Ruth, proprio perché sto dalla parte della convenzione. Più vicina di te, che imperversi come un iconoclasta delle isole dei mari del sud. Sono stati i missionari a distruggere le immagini, rise Martin, e sfortunatamente, al momento, tutti i missionari sono lontani, tra i pagani, e non è rimasto nessuno a casa per spezzare quelle vecchie immagini idolatre, il signor Vanderwater e il signor Prats. E anche tutti i professori universitari, aggiunse Ruth. Martin scosse con enfasi la testa. No, i professori di scienze devono vivere. Quelli sono davvero importanti. Ma non sarebbe un'azione malvagia rompere la testa a circa 9 su 10 professori di inglese, piccoli pappagalli con una mente microscopica. Frase questa che era indubbiamente piuttosto severa verso i professori, ma che alle orecchie di Ruth suonò come blasfema. lei non poteva evitare di confrontare i professori, puliti, dediti allo studio, vestiti con abiti che cadevano perfettamente, con le voci ben modulate e avvolti in un'aura di cultura e raffinatezza, con questo quasi indescrivibile giovanotto del quale, per qualche strano motivo, era innamorata. Quel giovanotto indossava abiti che non erano mai della giusta misura e aveva muscoli gonfi che rivelavano una vita fatta di fatiche opprimenti. Quando parlava si eccitava, sostituiva l'insulto a una pacata affermazione e si esprimeva con passione invece di conservare un freddo autocontrollo. I professori, se non altro, potevano contare su dei buoni salari. Ed erano, sì, Ruth si costrinse ad ammetterlo, erano dei gentiluomini. Martin, al contrario, non era capace di guadagnare un centesimo. Ah, non era come loro. I professori avevano ragione perché avevano successo, mentre Martin, quando esprimeva giudizi sulla letteratura, non poteva che essere in errore perché non riusciva a vendere la sua merce. Per usare una frase di Martin, i professori ce l'avevano fatta, mentre lui no. Inoltre, a Ruth non sembrava davvero possibile che Martin potesse avere ragione. Lui, che solo poco tempo prima, in quello stesso soggiorno, era diventato tutto rosso e imbarazzato quando le era stato presentato. Lui, che si era guardato intorno terrorizzato all'idea di far cadere a terra i piccoli soprammobili con le sue spalle ondeggianti. Lui, che le aveva chiesto da quanto tempo era morto Swinburne, per poi vantarsi di aver letto Excelsior e il Salmo della vita. Senza volerlo, a confermare quanto lei stessa idolatrasse le convenzioni. Martin seguì il percorso dei pensieri di lei, ma evitò di andare oltre. D'altra parte non l'amava per le sue opinioni su Prabs o Van der Water o sui professori d'inglese. E adesso Martin comprendeva, e ne era sempre più convinto, di dominare aree del cervello e di conoscere rotte attraverso il sapere delle quali Ruth ignorava l'esistenza e che comunque non avrebbe mai potuto comprendere. In campo musicale, Ruth riteneva i giudizi di Martin stravaganti e nel campo dell'opera lirica li riteneva non solo stravaganti, ma volutamente perversi. «Ti è piaciuto?» gli chiese una sera, mentre tornavano a casa dall'opera. Martin aveva potuto portare fuori Ruth quella sera solo a prezzo di un mese di rigide economie sul cibo. E lei, ancora tremante e commossa da ciò che aveva visto e ascoltato, gli aveva fatto quella domanda dopo avere inutilmente aspettato che lui dicesse qualcosa. «Mi è piaciuta l'ouverture», fu la risposta. «Era splendida». «Sì, ma l'opera?» «Ah, anche quella era splendida». Cioè, lo era l'orchestra, ma l'avrei apprezzata di più se quei saltimbanchi fossero stati tranquilli o se ne fossero andati dal palcoscenico. Ruth era paralizzata dall'orrore. «Non starai parlando della Tetralani o di Barillo?» investigò. «Ah sì, tutti quelli, equipaggiamento e ciurma al completo. Ma sono dei grandi artisti!» protestò Ruth. «Hanno rovinato lo stesso la musica con tutte quelle anticaglie e falsità!» «Ma non ti è piaciuta la voce di Barillo?» gli chiese Ruth. «Si dice che sia seconda solo a Caruso. Ma certo che mi è piaciuto. E la Tetralani mi è piaciuta ancora di più. Ha una voce squisita, o almeno io penso così.» «Ma balbettò Ruth. Ma allora non so che cosa tu voglia dire. Cioè, ammiri le loro voci e però dici che hanno rovinato la musica. Proprio così. Darei qualsiasi cosa per sentirli in concerto e darei qualcosa di più per ascoltare la sola orchestra. Temo di essere un realista senza speranza. I grandi cantanti non sono grandi attori. Ascoltare Barillo cantare una romanza d'amore con la voce di un angelo e ascoltare la Tetralani rispondergli come un angelo? Ascoltarli accompagnati da una perfetta sinfonia di musica brillante e piena di colori è qualcosa di affascinante. Sì, davvero affascinante. E non lo dico soltanto, lo affermo. Ma l'intero effetto crolla miseramente quando li guardo mentre cantano. Quando vedo la Tetralani, quasi 1,80 m senza scarpe, pesanti più o meno 90 kg, quando vedo Barillo, poco più di 1,5 m, l'aria viscida, piccoletto, ma con il torace di un fabbro muscoloso, e loro due in coppia, con quelle pose affettate, gli abbracci e le braccia spalancate nell'aria come creature dementi in un ospizio. E io dovrei accettare un simile spettacolo come la fedele riproduzione di una scena d'amore tra un'esile e bella principessa e un giovane principe aitante e romantico? Ecco, non riesco ad accettarlo, sono sciocchezze, è assurdo, è irreale, e questo è il problema. Non c'è verosimiglianza. Non mi dire che una sola persona al mondo ha mai corteggiato qualcuno in quel modo. Se lo avessi fatto io, mi avresti dato degli schiaffi. Ma tu fraintendi, protestò Ruth. Ogni forma d'arte ha i suoi limiti. Era impegnata nel richiamare alla memoria una conferenza che aveva ascoltato all'università sull'uso delle convenzioni nelle arti. Nella pittura vi sono solo due dimensioni, no? Eppure tu accetti l'illusione delle tre dimensioni. Illusione che un pittore è in grado di ricreare sulla tela proprio grazie alla sua arte. In letteratura, l'autore deve essere onnipotente, per esempio. Accetti come legittimo il racconto che l'autore ti fa dei pensieri segreti dell'eroina, eppure non puoi non sapere che l'eroina, mentre gli pensava, era sola. Né l'autore né nessun altro avrebbero potuto ascoltarli. E lo stesso accade nel caso del teatro, della scultura, della lirica e di ogni forma d'arte. Alcune cose, per quanto inaccettabili, devono essere accettate. Ah, sì, io questo lo capisco, rispose Marty. Ogni arte ha le sue convenzioni. Ruth si meravigliò che lui usasse quella parola. Sembrava che avesse studiato anche lui all'università, invece di possedere un'infarinatura approssimativa messa insieme spigolando qua e là tra i libri della biblioteca. Ma anche le convenzioni devono essere realistiche. Noi accettiamo come simbolo di una foresta degli alberi dipinti sul cartone e messi ai lati del palcoscenico. È una convenzione sufficientemente realistica. Allo stesso tempo, non accetteremmo il mare come simbolo di una foresta. Non potremmo. Violerebbe i nostri sensi. E tu non accetteresti, o meglio, non dovresti accettare il delirio e le contorsioni da agonizzanti di quei due matti come un convincente ritratto dell'amore. Credi di essere superiore a tutti i critici musicali? Protestò lei. No, neppure per un istante. Chiedo solo di poter conservare i miei diritti come individuo. Ti ho appena espresso ciò che penso, con il solo scopo di spiegarti per quale motivo, secondo me, gli sgambettii da elefante di Madame Tetralani rovinano la musica. I critici musicali dell'intero mondo possono avere ragione, ma io sono io. E non sottometterò il mio gusto al giudizio, seppur unanime, del genere umano. Se qualcosa non mi piace e basta. E non c'è alcuna ragione al mondo per la quale io sia obbligato a fingere che mi piaccia solo perché la maggior parte delle creature umane la ama o finge di amarla. Una cosa non può piacermi o non piacermi a secondo della moda. Ma sai, la musica è questione di preparazione, obiettò Ruth. E la lirica lo è ancora di più. Non può essere che tu, che io manchi della preparazione necessaria per apprezzare la lirica? Si intromise Martin. Ruth annuì. Proprio così, lui concordò. Mi considero fortunato di averla scampata quando ero giovane. Se non lo avessi fatto, questa sera avrei pianto lacrime di commozione e avrei pensato che le anticaglie clownesche di quella coppia preziosa arricchissero la bellezza delle loro voci e il fascino dell'orchestra che l'accompagnava. Hai ragione. Amare l'opera è per lo più una questione di preparazione. Io ormai sono troppo vecchio e ho bisogno di verosimiglianza. Una rappresentazione incapace di illudere non è altro che una tangibile menzogna. E la nobile lirica mi appare esattamente così quando il piccolo Barillo, in preda ad un raptus, abbranca la possente Tritralani, anche lei in preda ad un raptus, per dirle quanto appassionatamente l'adori. Di nuovo Ruth giudicò i pensieri di Martin basandosi sulla sua fede nelle convenzioni. Chi era lui per avere ragione, mentre l'intero mondo istruito avrebbe torto? Non si lasciava impressionare dalle sue parole e dai suoi pensieri. Era troppo radicata nelle convinzioni per provare una qualche simpatia verso delle idee rivoluzionarie. Inoltre, la musica aveva sempre fatto parte della sua vita, anche l'opera, che lei amava sin da quando era una bambina, come l'amava tutto il suo mondo. Con quale diritto Martin Eden emergeva dalla musichetta e dalle canzoncine popolari, e ne era emerso solo poco tempo prima, per giudicare la musica intera? Era arrabbiata con lui, e mentre gli camminava a fianco, le sembrò che Martin avesse commesso una grave profanazione. Ruth, solo volendo essere davvero caritatevole nei confronti del suo amato, poteva giudicare quelle affermazioni come un capriccio, uno scherzo eccessivo e non richiesto. Ma quando Martin, davanti alla porta di casa, divenne un tenero amante e la prese tra le braccia per darle il bacio della buonanotte, Ruth dimenticò ogni cosa, sommersa dal suo stesso amore per lui. E più tardi, appoggiata su un insonne cuscino, si scervellò, come ultimamente le era spesso capitato di fare, cercando di capire come mai si fosse innamorata di un uomo così strano e nonostante la disapprovazione della sua famiglia. Il giorno seguente, Martin Eden mise da parte il lavoro mercenario e forgiò un saggio intitolato «La filosofia dell'illusione». Un francobollo che dà inizio al primo viaggio del nuovo manoscritto, destinato, nei mesi seguenti, a ricevere molti francobolli e a partire per molti viaggi. Somewhere between the wind and the dove lies all I sought in you. And when the wind just dies, when the wind just dies, and the dove won't rise from your windowsill, well, I cannot tell you which way it would be if it was not this way too. For the wind and the dove, for the wind and the dove. Child of linger on. I peer through the window gone. Mm-hmm. Maria Silva era povera e conosceva tutte le strade della povertà. Per Ruth la povertà era una parola che indicava una condizione non piacevole di esistenza, e questo era tutto ciò che sapeva sull'argomento. Sapeva che Martin era povero, ma nella sua mente quella condizione lo accomunava all'infanzia di Abraham Lincoln, del signor Butler e di altri uomini che poi avevano avuto successo. Sapeva anche che la povertà non era piacevole, ma aveva al riguardo una sensazione rassicurante e borghese. Pensava che la povertà fosse salutare, uno sperone aguzzo capace di spingere verso il successo chiunque non fosse proprio un pezzente privo di capacità. Conseguentemente, Ruth non fu affatto disturbata dalla scoperta che Martin era così povero da aver dovuto impegnare l'orologio e il soprabito. Anzi, fu colpita dall'altra faccia della medaglia. Sperava che, presto o tardi, la miseria lo spingesse, lo costringesse a smettere di scrivere. Ruth non lesse mai la fame sulla faccia di Martin, che era diventata scarna e con le guance incavate. Al contrario, quei cambiamenti le piacquero. Davano all'uomo che amava un'aria più raffinata, sembravano purificarne il corpo dalle scorie della carne, da quel vigore animale che lei detestava, anche se contemporaneamente se ne sentiva attratta. A volte, quando era con lui, Ruth notava un'insolita brillantezza nei suoi occhi. Anche quella le piaceva, perché lo rendeva più simile ad un poeta, ad uno studioso, persone che Martin avrebbe desiderato essere e che lei avrebbe desiderato che lui fosse. Ma Maria Silva leggeva una storia ben diversa in quelle guance scarne e in quegli occhi lucidi. Giorno dopo giorno vedeva la faccia di Martin mutare, e quei cambiamenti le segnalavano gli alti e i bassi della sua sorte. Vedeva Martin lasciare la casa indossando il soprabito per ritornarne privo, anche se la giornata era fredda. Poi, in pochi giorni, vedeva le sue guance diventare un po' meno incavate, mentre il fuoco della fame spariva dai suoi occhi. Allo stesso modo, aveva visto Martin lasciare la bicicletta e l'orologio per ridiventare, dopo ogni sacrificio, vigoroso come prima. Maria osservava Martin lavorare duramente. Sapeva quanto olio bruciava di notte. Lavoro, lavoro. Lui lavorava più di lei, anche se era un lavoro di un genere diverso dal suo. Fu sorpresa di scoprire che quanto meno cibo aveva, tanto più duramente Martin lavorava. In certe occasioni, quando le sembrava più affamato del solito, Maria Silva gli mandava una pagnotta appena sfornata e, con tono canzonatorio, cercava goffamente di coprire quel dono, dicendo, per esempio, che quel pane era migliore di quello che avrebbe saputo farsi lui. Oppure gli mandava uno dei suoi bambinetti con una zuppiera di minestra bollente, chiedendosi se facesse bene a sottrarla al sangue del suo sangue. Ma Martin non le era certo irriconoscente. Conosceva bene la vita dei poveri e sapeva che se al mondo esisteva la carità, quella lo era. Un giorno Maria, dopo aver nutrito la sua covata con ciò che era rimasto in casa, investì i suoi ultimi 15 penny in un gallone di vino scadente. Quando Martin entrò nella cucina per prendere dell'acqua, lei lo invitò a sedersi e a bere. Martin bevve alla salute di Maria e lei, in cambio, a quella di lui. Poi Maria brindò al successo della sua impresa e Martin beve alla speranza che James Grant apparisse e la pagasse. James Grant era un carpentiere che lavorava a giornata e che non sempre pagava i suoi conti. Al momento doveva $3 a Maria. Maria e Martin avevano entrambi lo stomaco vuoto e l'aspro vino giovane gli andò subito alla testa. Erano due creature radicalmente differenti l'una dall'altra, ma entrambe sole nella loro povertà. E proprio la povertà era il legame che le univa, sebbene segretamente lo ignorassero. Maria si meravigliò quando scoprì che Martin era stato nelle Azzorre, dove lei aveva vissuto fino all'età di 11 anni. Si meravigliò ancora di più quando Martin le disse che era stato anche nelle Hawaii, dove lei era emigrata con la sua famiglia. Ma la sua sorpresa superò ogni limite quando seppe che lui era stato proprio a Maui, l'isola dove Maria era diventata donna e si era sposata. A Kaului, dove aveva incontrato per la prima volta suo marito, Martin era sbarcato addirittura due volte. Ah, sì, Maria ricordava i vapori carichi di zucchero e Martin era stato su quelle navi. Ma guarda, guarda, se non è piccolo il mondo. E Wailuku conosceva anche quell'isola, aveva conosciuto il capo della piantagione. Sì, Martin le disse che si era persino fatto un paio di bevute con lui. Così, tra i ricordi, i due affogarono la loro fame in quel vino aspro e crudo. A Martin il futuro non sembrava più così oscuro. Adesso il successo tremolava proprio di fronte a lui, stava quasi per afferrarlo. Poi studiò le profonde rughe che segnavano la faccia della donna consunta dal lavoro seduta di fronte a lui, ricordò le sue zuppe, i suoi sformati e sentì sbocciare in sé la più affettuosa gratitudine. «Maria!» esclamò all'improvviso. «Cosa ti piacerebbe avere?» Lei lo guardò perplessa. «Beh, cosa ti piacerebbe avere adesso, proprio adesso, se tu potessi averlo, eh?» «Ah, scarpe per tutti quanti i bambini, 7 paia di scarpe!» «Le avrai!» proclamò lui, mentre lei annuiva con gravità. «Ma io parlavo di un grande desiderio, qualcosa di davvero grande che vorresti avere!» Gli occhi di Maria brillarono divertiti. Era felice che Martin volesse scherzare con lei. Pochi in quei giorni avevano voglia di farlo. «Pensaci sul serio», lui disse, proprio mentre Maria stava aprendo la bocca per parlare. «Va bene», rispose lei. «Ci penso sul serio. Mi piacerebbe una casa. Ecco, questa casa, tutta mia. Niente affitto da pagare. $7 al mese». «La avrai», le garantì Martin. «E in poco tempo. Ma adesso devi esprimere un desiderio proprio grande, eh? Fai finta che io sia Dio. E ti dico che qualsiasi cosa che tu voglia, la potrai avere. E adesso fammi ascoltare quello che desideri avere». Maria meditò solennemente per un po'. «Non hai paura?» gli chiese lei, per come per avvisarlo. No, rise Martin. «Non ho paura. Dai, avanti». «È davvero grande?» Maria lo avvisò di nuovo. «Dai, su, spara!» «Bene, allora...» Lei inspirò profondamente, come un bambino mentre trasformava in parole la cosa che più desiderava nella vita. «Voglio avere un allevamento per il latte. Un buon allevamento. Tantissime mucche, tanta terra, tanta erba, vicino a San Leandro. Mia sorella vive lì. Venderò il latte a Oakland e io diventerò ricca». «Ma Joe e Nick, no, basta guardare alle mucche. Voglio che vanno a scuola. Chissà che possono diventare buoni ingegneri, lavorare nella ferrovia. Sì, io voglio proprio l'allevamento del latte». Maria si interruppe e guardò Martin con occhi sfavillanti. «L'avrai», lui le rispose con prontezza. E lei annuì e portò con grazia il bicchiere alle labbra, brindando a chi le prometteva un dono che lei... lo sapeva, non sarebbe mai avvenuto. Il cuore di Martin era buono e Maria, nel proprio cuore, apprezzava le sue intenzioni. Era come se avesse già ricevuto il dono tanto desiderato. «No, Maria», continuò Martin, «Nick e Joe non dovranno mungere il latte. Tutti i tuoi bambini potranno andare a scuola, indosseranno scarpe 12 mesi l'anno. Sarà un allevamento di mucche da latte di prima classe. Non mancherà nulla. Ci sarà una casa per abitarvi, una scuderia per i cavalli e naturalmente la stalla per le mucche. Ci saranno anche i polli, maiali e l'orto, alberi da frutta e altre cose simili. Ci saranno abbastanza mucche per pagare uno o due manovali. Non avrai altro da fare che prenderti cura dei tuoi bambini. E se trovi un brav'uomo, puoi sposarlo e darti alla bella vita mentre lui si occupa dell'allevamento». Martin abbandonò quella generosità dispensata dal futuro e portò il suo unico completo al negozio dei pegni. Si trovava in una situazione davvero disperata, perché impegnare quell'abito significava non poter più vedere Ruth. Martin non aveva un altro completo presentabile, e anche se poteva andare dal macellaio o dal panettiere, certe volte persino da sua sorella, non avrebbe mai osato, neppure nei suoi sogni, entrare nella casa dei Morse, vestito come un pezzente. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it